Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia del poeta Gianluca Stival dal titolo Accanto a me. Dicono che il cerchio prima o poi si chiuda, dicono che il bene torni a chi l'ha ceduto, dicono che il coraggio sia di chi rischia e io credo che avere te nella mia vita sia il più bel miracolo di sempre. Credo che se non ci fosse più tempo io tornerei indietro per riprenderti per mano. Credo che se non avessi più fiato io userei l'ultimo spiraglio di voce per dirti che ti amo. La voce che hai quando stai per dormire, gli occhi che hai appena ti risvegli mi ricordano quanto sia puro il mondo e quanto sia incorrotto il bene che mi fai. Il conturbante profumo che vesti sa di universo che si apre senza fragore e mi fa dimenticare la terra bruciata, i sogni trascurati, i pensieri tormentati. Dicono che ci siano elementi inscindibili e tu sei quel mio elemento. Accanto a me.